Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Ben ritrovati, puntata speciale di Globetrotter 24 tra Milano e Mantova, un passaggio di testimone ideale tra la città che ha ospitato l'Expo e la città che ospita l'Anno della Cultura. L'impresa più bella inizia oggi. Dichiaro ufficialmente aperta l'esposizione universale Expo Milano 2015. 184 giorni vissuti sull'onda di un entusiasmo sempre crescente, 21 milioni di visitatori, capi di Stato e di Governo, il messaggio del Papa, eventi, mostre, restauri e opere di urbanizzazione come la linea 5 della metro. La darsena restituita alla città, una Milano che si è fatta bella per mostrarsi al mondo. E adesso cosa resta? Cosa ne sarà dei prossimi 184 giorni e di quelli che seguiranno? Innegabile il successo dell'esposizione, innegabile il successo di Milano e la bellezza di questa città riemersa dopo anni grigi. E non rischio di passare per campanilista, visto che sono romana e che non mi rassegno ancora a Milano, nonostante da 15 anni sia ormai la mia città. Il ponte ideale tra Expo e cosa succede adesso l'ho fatto disegnare a Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano. L'anno di Expo è stato un anno molto importante per la città, anche per tutto ciò che abbiamo costruito per accompagnare virtuosamente l'esperienza dell'esposizione universale. Abbiamo dato vita a un progetto speciale che si è chiamato Expo in Città, realizzato in collaborazione tra Comune di Milano e Camera di Commercio, che ha costruito un grande laboratorio di idee che si è svolto lungo tutti i 6 mesi dell'esposizione universale, con una fittissima trama di appuntamenti culturali, non solo, anche momenti di approfondimento scientifico, anche occasioni di mero intrattenimento, che però hanno disegnato una nuova identità della città di Milano come una straordinaria capitale di patrimonio artistico e anche ovviamente di produzione culturale e creativa. Abbiamo messo in rete oltre 48.000 appuntamenti che si sono succeduti nell'arco dei 6 mesi e alla fine abbiamo visto che le persone coinvolte da questo ricchissimo palinsesto appunto di Expo in Città sono state oltre 10 milioni. Abbiamo cercato di costruire una cabina di regia molto agile che potesse mettere insieme davvero le energie migliori della città e devo dire che questo 2015 è stato straordinario per l'apporto di istituzioni private e pubbliche a aumentare notevolmente qualità e quantità dell'offerta culturale complessiva di Milano. Questo è avvenuto in un quadro però di sviluppo che era già iniziato 3 o 4 anni fa, per cui abbiamo, come si può dire, raccolto i frutti di un percorso di lavoro che è stato pluriennale e che ha riportato finalmente Milano ad essere una città la cui offerta culturale appunto per qualità e quantità può competere con quella delle altre principali città europee. Senta assessore, quali sono gli appuntamenti che traghetteranno Milano nel 2016 dal punto di vista culturale che quindi potranno essere fruiti da chi arriva adesso, da chi arriverà a Milano nei prossimi mesi? Nel 2016 ci sarà un grandissimo appuntamento, ancora una volta semestrale, partirà ad aprile e finirà a settembre, che è la 21esima triennale. Design After Design è il titolo che è stato scelto, si riprende dopo oltre 20 anni a fare in modo che Milano sia davvero la capitale del pensiero e della produzione applicata al tema del progetto in termini di design e in termini di architettura. Erano oltre 20 anni che non si faceva più la triennale a Milano, nel 2016 si riprende grazie anche alla nuova reputazione che la città ha acquisito nella capacità di organizzare e realizzare grandi eventi internazionali. Poi naturalmente ci sarà una programmazione molto ricca dal punto di vista delle mostre a Palazzo Reale. Ormai Palazzo Reale ha acquisito una reputazione davvero estremamente significativa. Io vorrei citarne una in particolare, che è quella dedicata a Boccioni. Sarà una mostra molto importante anche perché ci permetterà di mettere in connessione quelli che sono gli istituti di ricerca della nostra città, penso al Museo del Novecento, penso ai Musei del Castello Sforzesco, che insieme realizzeranno un nuovo progetto scientifico di approfondimento sulla figura di Boccioni che credo sarà di grandissimo interesse, di grandissimo valore. Avremo poi la conferma di alcuni appuntamenti che ormai sono diventate delle tradizioni nel calendario dell'offerta culturale della città e che sono state istituite da 3 o da 4 anni. Penso ai grandi festival tematici tematici come Book City, che si svolgerà nel novembre 2016, o Piano City, che si svolgerà nel maggio 2016, due modelli che ormai sono affermati appunto come formati estremamente innovativi di festival urbani e diffusi. Se lei, assessore, dovesse invogliare a venire a Milano e diciamo accompagnare il turista che ha magari poco tempo e indicargli due o tre tra mostre ed esposizioni che diciamo è necessario proprio vedere passando per Milano, quali sarebbero queste due o tre che individuerebbe? Ma io individuerei dei luoghi, inizierei dal MUDEC, il Museo delle Culture, che abbiamo aperto alla fine di Expo, l'abbiamo aperto alla fine di ottobre, è uno straordinario centro multidisciplinare dove viene esposta la collezione permanente di arte extraeuropea del Comune di Milano, dove ci sono mostre temporanee molto affascinanti, adesso ce n'è una in particolare su Gauguin di particolare valore, dove ha sede il Forum Cittamondo, che è un'associazione che raccoglie tutte le associazioni delle varie culture altre presenti nella nostra città, ed è di fatto un museo molto interessante e anche credo molto innovativo dal punto di vista della sua offerta, che appunto è multidisciplinare e attraversa e abbraccia molti linguaggi artistici, e lo fa davvero con una proposta che costantemente propone anche momenti laboratoriali dedicati ai bambini, dedicati alle famiglie. Il MUDEC quindi è una grande novità a Milano e credo vada visitato. L'altro luogo che va visitato è Casa Manzoni, che abbiamo restituito alla città dopo un lungo percorso di restauro, con una nuova offerta museale che permette finalmente di collocare la figura di Manzoni in maniera consapevole e responsabile come uno dei, insomma, delle grandi personaggi che hanno fatto la storia di Milano, ma con questo hanno fatto anche la storia d'Italia. Vorrei segnalare invece un luogo privato, che è la Fondazione Prada, che è uno straordinario luogo museale dedicato al contemporaneo e che in effetti ha rappresentato una grandissima capacità di innovazione nel complesso dell'offerta culturale di Milano. E chiuderei dicendo a tutti i visitatori: non perdetevi la Darsena. La Darsena è un luogo che abbiamo restituito alla città, l'abbiamo restituito a una piena funzione pubblica, è stupefacente quanta bellezza e quanta capacità di incontro sa generare il fatto di avere restituito alla città uno specchio d'acqua. Tra musei, mostre, esposizioni temporanee, esposizioni permanenti, ma anche luoghi della città che abbiamo restituito a una funzione pubblica, noi abbiamo detto nel 2015 che Milano è diventato finalmente a place to be, un luogo dove andare, un luogo dove essere. Questo invito però noi lo rinnoviamo anche nel 2016, lo rinnoviamo anche in futuro. Davvero Milano sta riscoprendo un'identità che le è stata propria nelle stagioni migliori della sua storia, che si era parzialmente offuscata negli ultimi anni, ma che adesso sta tornando a risplendere e che penso attrarrà il desiderio di molti di visitarla e di conoscerla meglio. Io ho sentito molte ballate. Lo avete sentito, al Museo delle Culture trovate ancora in esposizione la mostra su Gauguin e quella sulla Barbie, molto più di una bambola. L'esposizione permanente, sempre al MUDEC, è gratuita fino ad agosto. La Fondazione Prada, oltre a mostre temporanee, ha anche installazioni permanenti. Tra i privati ricordiamo anche lo spazio in Piazza della Scala, allestito da Intesa San Paolo con le proprie collezioni. All'interno dei palazzi Anguissola e Brentani, le Gallerie d'Italia, collezioni dell'Ottocento e del Novecento. Diceva che era un mago. Era un mago. Anche per i più piccoli, infinite possibilità. Il Museo dei Bambini si trova dentro la Rotonda della Besana, già di per sé bella, con all'interno la chiesa sconsacrata di San Michele, oggi adibita a spazio espositivo. Il Museo di Storia Naturale è un'altra tappa fissa per i bimbi, così come il Museo della Scienza e della Tecnica. E poi il Castello Sforzesco. I piccoli esploratori apprezzeranno i percorsi pensati apposta per i bambini dal Centro Culturale Sforzinda. Al Bar de Giambellino. Diceva che era un mago, era un mago. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. arriva a Milano per la prima volta penserà di non poter evitare il Duomo, lo stesso castello, il Cenacolo, ma la città, e ve lo dice una che a distanza di anni ancora fa fatica a viverci, questa città è molto di più. Ha molto di più da offrire, da far vedere. Bisogna però avere un po' di pazienza per scoprirlo a poco Milano portata di mano. In questo viaggio ho chiesto aiuto a chi ha scelto di raccontare la Milano più segreta per vocazione, una vocazione diventata poi lavoro. Milano da vedere ha un'associazione che ti accompagna, se lo vuoi, per la città, che te la racconta attraverso i social network, che ti invita a bere un bicchiere e nel frattempo ad ascoltare la storia, la vera storia di Milano. Incontro Danilo in un punto preciso e anch'esso storico di Milano, aperto fin dai primi del Novecento, il Bar Magenta. Non potevamo iniziare da una zona più bella. Corso Magenta è abbastanza conosciuta in realtà, soprattutto perché ospita Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo Vinciano. Purtroppo molti credono che ci sia solo quello, in realtà non è così. In una strada che in realtà non è poi neanche così tanto lunga, da Piazzale Baracca arriva fino a via Maravigli, si possono incontrare tante testimonianze della storia della nostra città. Percorrendo idealmente da Santa Maria delle Grazie andando verso il centro, c'è Casa Tellani, per esempio, proprio sulla destra di Santa Maria delle Grazie, una casa meravigliosa che oggi magari si conosce di più perché si parla tanto della vigna di Leonardo, che è stata ricostruita esattamente dove il maestro l'aveva fatta, Fondazione Stelline. Poi ci si incrocia con via Carducci, dove siamo noi adesso, e una cosa ad esempio che nessuno sa è che pochi metri distante da dove siamo noi adesso c'è la casa che la famiglia Sforza ha regalato a un personaggio abbastanza importante della storia italiana, che è Lorenzo il Magnifico. Proprio qua a due passi ci sono i resti della casa che gli è stata proprio donata, nascosta dentro un portone. Si può però vedere, se si ha la fortuna di trovare il cancello aperto. Pochi metri più in là poi c'è invece forse uno dei posti più belli che è la nostra città, che qua paradossalmente è più conosciuta dagli stranieri che dagli italiani o dai milanesi, che è la chiesa di San Maurizio. Chiesa di San Maurizio, monastero maggiore San Maurizio, è una meraviglia ed è l'esatta rappresentazione sbagliata di quello che si pensa sia Milano, perché se tu la guardi da fuori vedi una chiesa che apparentemente è grigia, dice poco, un po' come si pensa che sia la città di Milano, no? Se è una città grigia. In realtà, se hai un po' di curiosità e la voglia soprattutto di aprire la porta, viene avvolta da un insieme di colori, di affreschi talmente belli, talmente avvolgenti, che ti fanno ricredere sia della città che ovviamente della chiesa. Chiesa meravigliosa del 1500, ma anche se in realtà si hanno già delle tracce scritte in epoca carolingia, quindi ancora prima dell'anno 1000. E grazie a questa chiesa siamo riusciti a rivedere, a ritrovare quelli che sono i resti dell'antica Roma, dell'antica Mediolanum. Si sono salvati due torri, una che faceva parte del circo romano, che proprio qua iniziava o finiva a seconda del punto di partenza. 1,1 km di percorso di questo circo, e i resti si possono vedere proprio all'interno di questa chiesa. Poco distante poi c'è Via Brisa, si ha la possibilità di vedere i resti di quelli che sono il palazzo dell'imperatore, sempre di epoca Mediolanum, quindi torniamo indietro di 2000 anni. E ancora Palazzo Litta, sempre qua in corso Magenta. Cambiamo zona, un'altra zona che secondo te vale la pena di scoprire in maniera più approfondita, che dà più spunti? Ma sai, spesso quando le persone vanno in giro per la città magari si fermano nel centro, la piazza del Duomo, fanno magari le classiche vie, quelle dello shopping. In realtà proprio due passi dal Duomo ci sono degli angoli che sono molto meno frequentati, ma di una bellezza incredibile. A me piace sempre citare quello che dovrebbe essere uno dei luoghi più conosciuti di Milano, che è Piazza Mercanti. Piazza Mercanti è di una bellezza inaudita, diventata famosa grazie ad Aldo, Giovanni e Giacomo quando giocavano a basket, ma dovrebbe esserlo per la rappresentazione degli edifici che fanno il perimetro di questa piazza, che sono veramente uno più bello dell'altro. E a pochi passi c'è la Pinacoteca Ambrosiana, che guarda caso, come dicevamo prima, era proprio il centro di Mediolanum, perché sotto la Pinacoteca c'è il Foro Romano. Quindi, prendendo due parole che tutti, grazie all'Expo, abbiamo imparato a conoscere, Cardo e Decumano, all'incrocio tra Cardo e Decumano c'era il Foro, quindi il centro della città. E il Foro Romano è proprio sotto la Pinacoteca Ambrosiana. E alle spalle della Pinacoteca, quindi quando si esce dalla Pinacoteca dopo aver visto i quadri, si incontra Piazza San Sepolcro. Piazza San Sepolcro è un'altra piazza che storicamente è molto bella, con questa chiesa che sicuramente è sottovalutata, più che altro perché non è conosciuta, e si ha la possibilità veramente di vedere un'opera particolarmente, particolarmente importante e particolarmente bella. E da lì si possono andare a trovare altre tracce di quella che è la presenza della cultura romana di Mediolanum, quindi di 2000 anni fa, sia dalle vie, lì ad esempio c'è via Zecca Vecchia e Zecca Nuova, quindi che ci ricorda che lì probabilmente c'era una zecca. E andando da lì, sono veramente pochi passi, in Piazza Affari, dove c'è Palazzo Mezzanotte, quindi uno dei simboli di Milano e quindi della Borsa, lì si possono vedere i resti del teatro romano, che sono esattamente proprio sotto il palazzo della Borsa. E proprio lì dietro, altro angolo meraviglioso, è appena restaurato il Santa Maria alla Porta, una chiesa bellissima, con questa nuova zona che hanno appena ristrutturato dopo appena 50 anni, anzi un po' di più, visto che era appena finita, è stata bombardata nella Seconda Guerra Mondiale. Si può vedere un'altra zona meravigliosa, e magari immaginare che Santa Maria alla Porta si chiama così perché lì c'era una delle porte, no? Il nome deriva proprio da quello, e quindi immaginare delle mura che passano proprio da quella via e capire che via San Giovanni sul Muro porta questo nome, perché muro era proprio perché c'erano le mura. Ma ti dirò di più, visto che la maggior parte delle persone, quando si muovono, comunque prendono come punto di partenza il Duomo, soprattutto i milanesi, anche il Duomo, che sicuramente è, diciamo, il luogo, l'edificio, la chiesa più conosciuta in tutto il mondo della nostra città, i milanesi non sanno come si chiama. Penso che noi siamo abituati a chiamarlo Duomo, ma il Duomo c'è anche a Venezia, c'è anche in altre città, cioè Duomo non è il nome proprio. Tu chiedi a qualcuno, ma il Duomo a chi è intitolato? Ah no, si chiama Duomo, la risposta è quella. Invece no, è anche bello scritto, è scritto molto in grande, no? Santa Maria Nascente, sopra il portone centrale c'è una targa molto grossa che dice qual è il suo nome, ma non lo si sa, i milanesi non lo sanno, meno la maggior parte. Se dovessi allontanarti dal centro invece, quale zona consiglieresti di andare a scoprire? Ma allora, una delle zone che a me piace particolarmente è la zona ovest della città, quindi per intenderci dove c'è lo stadio di San Siro, diciamo una cosa molto, molto conosciuta, perché lì si possono trovare tanti resti, tante tracce di quello che è un passato vicino ma anche lontano. Prendendola proprio da fuori, per dire, c'è un paese, un comune in realtà, che confina proprio con Milano, che si chiama Settimo Milanese. Avvicinandosi verso Milano troviamo Quinto Romano e Quarto Canino, che sono due invece quartieri della città. Settimo, Quinto e Quarto corrispondono alle miglia di distanza con il centro della città in epoca romana, quindi anche lì abbiamo una traccia di quello che c'era un tempo. Poco distante dallo stadio abbiamo la possibilità di vedere tre cascine, di cui una, che si chiama Cascina delle Torrette, anche qua il nome che deriva dal fatto che c'era una torretta di avvistamento in epoca romana, è stata l'ultima cascina funzionante più vicina alla Madonnina. Fino a 15 anni fa, al sabato, i proprietari invitavano i bambini per far vedere come si faceva il latte, come si faceva il burro, quindi era molto, molto attiva. Oggi esiste ancora, purtroppo non esiste più il campo coltivato da 4-5 anni, ma è una testimonianza importante di quello che è comunque un passato anche abbastanza recente della nostra città. Ce ne sono altre due, proprio due passi dallo stadio c'è la cascina La Brusada, o meglio, quello che rimane, La Brusada è La Bruciata in italiano, che è una cascina dove si narra, si racconta che abbia mangiato Napoleone durante la campagna d'Italia. E sempre vicinissimo allo stadio, dove c'è l'uscita del parcheggio dei VIP, ci sono i resti di una... della scuderia De Montel. Le scuderie De Montel erano delle scuderie bellissime in stile Liberty, abbandonate durante il periodo della guerra. Oggi si intravede qualcosa, ma già con quel poco che è rimasto si capisce quanto potevano essere belle all'epoca. È un luogo meraviglioso, purtroppo non c'è modo di riuscire a sistemarle, ci sono tanti progetti ma non si fa veramente, veramente molta, molta fatica. Quindi anche qua, proprio a due passi dallo stadio, quando si va magari a vedere una partita che si ammira all'Inter, ha poca importanza, veramente in pochissimo spazio, pochissima strada, c'è veramente la possibilità di vedere tanto. Da lì, avvicinandosi verso il centro, si possono poi scoprire tante cose che appartengono in questo caso a un passato molto, molto vicino. Piazza De Angeli, che è anche una fermata della metropolitana, in realtà quel quartiere lì si chiama La Maddalena, aveva questo nome. Ci sono delle fotografie di inizio secolo che si fanno vedere questa piazza completamente allagata, perché lì a due passi scorreva l'Olona, e unico indisturbato che continuava la sua marcia era il Gamba de Legni, che da fuori andava verso Corso Vercelli. Gamba de Legni era un tram, diciamo così, uno dei primi, di una zona che in 100 anni è sicuramente cambiata tanto, non ne sonda più l'Olona da quelle parti, però passeggiando e magari guardando quelle che erano queste fotografie storiche ci si rende conto della bellezza di quella zona, e da lì appunto poi si può prendere Corso Vercelli, che si chiamava una volta Borgo Vercelli, e arrivare in quella che abbiamo citato prima, Piazzale Baracca, e immaginare che dall'altra parte della piazza, dove inizia Corso Magenta, iniziava la città, e avremmo trovato al posto della piazza una porta Magenta, che è stata abbattuta verso la fine dell'Ottocento. Danilo mi ha svelato anche un'altra chicca sul Duomo. Sul lato sinistro del balcone, sopra il portone centrale della chiesa, c'è una statua nota come la Legge Nuova, che risale al 1810. Somiglia molto alla Statua della Libertà e infatti si ritiene che sia uno dei modelli che avrebbe ispirato Bartholdi per la realizzazione della Statua della Libertà di New York nel 1885. Alternativa, in questo caso potete trovarla anche in una guida pubblicata proprio in occasione di Expo. Sotto Milano, questo è il titolo, un percorso che attraversa la musica, il cinema, il teatro, dalle periferie, torna in centro. Qui potete trovare il perché vale la pena di andare a vedere quartieri come Lambrate e Isola, la musica e i locali underground, la scultura, la pittura e il teatro fuori dal giro ufficiale. Da vedere ce n'è, forse ancora di più c'è da scoprire, come le antiche mura romane che spuntano tra un palazzo e l'altro in via Brisa. C'è un fiore, le ragazze fanno la fila per vedere la sua tomba con su scritte le parole. Impegno per trovare, ma non meno meraviglia, ci vuole a Mantova. Un salto troppo lungo? Forse, o forse no. Adesso una piccola pausa. Globetrotter 24. Da questo momento in poi luce puntata su Mantova e affrontiamo subito la nota dolente e ammettiamo che arrivare a Mantova da Milano non è semplice. Poco meno di 200 km, pochissimi treni diretti e anche in macchina la situazione non migliora di molto. Fatto sta che Mantova è la capitale della cultura 2016 e ha colto l'occasione per curare tutte le ferite ancora aperte dal terremoto. La capitale italiana per la cultura 2016 è la città di Mantova. A differenza di Milano, qui tutto è a portata di sguardi. Il centro si attraversa in 15 minuti e ogni angolo che si gira ha qualcosa da raccontare. Anche le strade di questa corte dei Gonzaga hanno storie da raccontare. Mi accompagna Diego Furgeri, guida esperta, innamorato della sua Mantova. La selciatura delle strade e delle piazze di Mantova ha una storia molto importante, perché i sassi di Fiumi con la quale è realizzata, provengono direttamente dall'alto corso del fiume Mincio, e il trasporto di questo materiale è stato reso possibile grazie a una grande opera di ingegneria idraulica che i Gonzaga hanno sviluppato a metà 400, al tempo in cui anche Milano si stava dotando in maniera più industriale, diciamo così, del sistema dei navigli, e i Gonzaga fecero scavare, ripeto, a metà 400 il naviglio di Goito, cosiddetto, che è un canale navigabile che permette di portare i sassi dall'alto corso in città per risolvere il problema, chiaramente, delle fanghe durante l'inverno e della polvere durante l'estate. E quindi sono un po' scomodi per il signore coi tacchi, ma hanno una storia nobile, ecco, sono il frutto di un grande intervento di ingegneria idraulica per il trasporto e per il commercio. La selciata ci porta all'ingresso di Palazzo Ducale, la reggia dei Gonzaga, tanto grande da potersi perdere, espressione del più alto rinascimento, è il biglietto da visita della città. Da poche settimane il suo direttore è Peter Asman. Io ho un po' di esperienza, anche di capitale culturale, perché la città dove abito, almeno finora, adesso abito a Mantova, è Linz in Austria, e Linz è stata capitale culturale dell'Europa nel 2009, così come direttore del Museo Linz ho fatto tante cose a proposito di quest'anno e ho visto le cose che funzionano e che non funzionano. Quindi l'occhio deve essere proprio sul punto di vista che cosa resta, proprio che cosa si può fare, si può investire in quest'anno, che poi resta anche per gli anni dopo, perché Mantova ha proprio questa possibilità. Su che cosa secondo lei è necessario puntare per quest'anno che poi possa restare, premesso che poi Mantova è sempre una meta, diciamo, ricercata? Primo punto cruciale direi è la contemporaneità, quindi Mantova deve essere non solo una città dei vecchi tempi, capitale proprio dell'Europa nei tempi dei Gonzaga nel 500, ma oggi è un po' una città infra, quindi non è mica piccola ma non è mica grande, quindi devo anche un po' vendere, io direi, la sua dimensione speciale, ma proprio sempre in un dibattito col contemporaneità, vuol dire invitare artisti, proprio fare mostre sulla contemporaneità, sull'arte contemporanea, non solo nel senso una volta all'anno si fa una grande cosa al Palazzo Te o Ducale o non so che, ma anche sviluppare una struttura delle gallerie, una struttura anche del collezionismo, una struttura per far sentire gli artisti con i loro commenti, anche dando un po' di spazio per residenzialità, per anche i commenti, così la città vive e prende proprio questo spirito dei tempi dei Gonzaga, perché anche loro hanno fatto venire a Mantova Rubens, Mantegna e Giulio Romano, quindi artisti di primo livello che poi sono stati anni a Mantova per seguire il loro lavoro, e questa è l'idea anche di riprendere questo pensiero. Quindi diciamo intersecare passato e presente, diciamo dare una prospettiva? Sì, naturalmente il passato c'è e anche da valutare, che una cosa tremenda, Mantova senza la Camera degli Sposi a Mantegna è stata una catastrofe per credo 2 anni, è stata chiusa a causa del terremoto e i danni, ma il turismo è stato più o meno crollato, quindi si vede che la gente arriva a Mantova proprio per vedere questa camera. Entrando nella Camera degli Sposi, arrivando da una strada a chiocciola che era fatta per i cavalli, non si può fare a meno di restare a bocca aperta e in silenzio ad ascoltare. La camera si compone fondamentalmente di 2 scene che sono in un ordine cronologico e logico e racchiudono un periodo di tempo brevissimo, una mattinata del 1 gennaio 1462. La prima scena da cui bisogna iniziare è la scena della corte, che è raffigurata da Mantegna, non a caso, sopra il camino da che mondo è il simbolo del focolare domestico, dell'unità della famiglia. Infatti il senso fondamentale della prima scena è questo: dare il senso di coesione, di unità, di vicinanza dei vari componenti. Noi vediamo in ordine di importanza, sul trono vediamo Ludovico II Gonzaga, che era all'epoca il marchese della città. Il marchese di Mantova è raffigurato insieme alla moglie, alla sua sinistra, Barbara di Brandeburgo, era di famiglia imperiale, arrivata qui a 11 anni e diede al marchese 10 figli, qui ne sono raffigurati alcuni. C'è Francesco, Rodolfo, Ludovico, Paola, Barbara, eccetera. Insieme alla moglie, ai figli, vediamo una serie di cortigiani, di uomini della corte che si stanno passando parole in maniera abbastanza concitata e affrettata. I volti, le facce dei personaggi sono molto turbate, sono molto preoccupate, non c'è distensione in quello che si vede, ma al contrario c'è molta preoccupazione. Il mistero di questa preoccupazione è contenuto nella lettera che il marchese tiene in mano e che il fido servitore sulla sinistra, che si è tolto il cappello ovviamente in segno di rispetto, gli ha appena consegnato. La lettera proviene da Milano. A scriverla è Bianca Maria Visconti, che era la duchessa della città e che in un frangente molto pericoloso, molto difficile per lei e per Milano stessa, si sentì di dover chiedere l'aiuto del marchese. Nella fattispecie il marito di Bianca Maria Visconti, Francesco Sforza, che è colui che traghetta la signoria milanese dai Visconti agli Sforza, appunto, stava morendo, stava male, sembrava così, insomma. E allora la donna disperata scrive al marchese chiedendogli: ti prego, ti imploro, corri qui, vieni subito a Milano, dammi il tuo contributo, il tuo sostegno, perché da solo non posso farcela. In quel periodo il marchese di Mantova era il capitano generale delle truppe milanesi, non poteva rifiutarsi di dare il suo aiuto, era come se il suo titolare, se il suo padrone, il suo capo gli chiedesse di essere appunto sostenuto. Quindi la prima scena raffigurata sul camino vuole significarci un senso di unità domestica, di coesione familiare, soprattutto nei confronti delle difficoltà esterne, e la difficoltà esterna in questo momento è il pericolo che il tramo di Milano stava correndo con la malattia apparentemente mortale del suo duca. Quindi il marchese non può fare altro che partire, è un freddo inverno, ma non può fare altrimenti. Infatti, se ci spostiamo, noi vediamo nell'altra scena il cavallo del marchese, i suoi servitori, i cani della scorta, e che sono partiti alla volta di Milano. E a un certo punto, all'altezza più o meno di Bozzolo, che è un piccolo paese tra Mantova e Cremona, Ludovico Gonzaga, lo rivediamo ancora una volta di profilo nella seconda scena, fa un incontro particolare. Vede venire avanti di fronte a sé quel ragazzone in abiti azzurri e rossi, e che è suo figlio, Francesco Gonzaga. Questo ragazzo, giovanissimo, 17enne, da 13 giorni era stato nominato cardinale di Santa Romana Chiesa, nonostante che di anni ce ne volessero 21 per diritto canonico. Però i Gonzaga qui cercarono di, tra virgolette, di fregare il Papa sull'età del ragazzo e gli dissero che aveva già 21 anni compiuti. E il cardinale Francesco Gonzaga da 13 giorni era tale e si era recato a Milano, interrompendo i suoi studi universitari a Pavia, per ringraziare la famiglia Visconti Sforza, perché la famiglia milanese si era battuta presso la Curia Pontificia per la sua nomina appunto al cardinalato. Il ragazzo stava tornando finalmente a casa verso Mantova, le strade non erano molte, anzi c'era solo una strada percorribile che collegava Mantova con Milano, quindi per forza di cose il padre da Mantova verso Milano, il figlio itinerario opposto, si incontrano. Narra la leggenda, insomma la cronaca, che il padre una volta dopo aver riconosciuto il figlio è sceso da cavallo, lo ha raggiunto, lo ha abbracciato, gli ha detto questa frase molto retorica ma che colpisce nel senso della cultura del tempo, gli disse cioè: se secondo il volere della natura io sono tuo padre, ora secondo il volere di Dio sono tuo figlio, perché ovviamente il figlio ormai era un principe della Chiesa. E la domanda è: perché celebrare questo incontro nell'opera più importante e più famosa che il Mantegna realizzò alla corte mantovana? La nostra cultura di oggi fa un po' fatica a capire l'importanza di questo incontro, che potrebbe apparire invece abbastanza marginale e secondario. E no, invece no, perché naturalmente intanto dobbiamo dire che erano mesi che padre e figlio non si vedevano, e soprattutto la nomina al cardinalato per una famiglia nobile italiana era il non plus ultra, significava mettere un piede nelle alte gerarchie ecclesiastiche e soprattutto avere potenzialmente un papa. e quindi il primo cardinale di Casa Gonzaga viene celebrato in questa camera, perché significava che ormai la famiglia aveva coronato il suo sogno, il suo progetto culturale ma anche politico. E infatti lo sfondo della scena dell'incontro è tutto meno che la pianura padana, ma quella è Roma. Certo, direte voi, facile parlare della Camera degli Sposi. La scommessa è quella di attirare i turisti e catturarli per 2 o anche 3 giorni, perché c'è tanto da vedere a Mantova. Ci sono tante cose da vedere, da sentire, anche questo insieme dei gusti, di quello che si vede, di quello che si può provare. Credo che sia molto importante dare l'impressione che si può stare almeno per 2 o 3 giorni a Mantova per sentire un po' proprio questa città. Non è una città, come si dice credo in Italia, modere va via, modi e fucci, grazie, deve essere una città di dove si sente bene, ed è proprio da così da scoprire di naturalmente più. Di più ci sono angoli anche vecchi, bellissimi angoli. C'è questo grande asse fra Palazzo Te e Palazzo Ducale, chiaro, ma ci sono anche altri musei da scoprire, ci sono delle case vecchie, c'è la città vecchia, ci sono delle piazze nascoste, direi, e c'è anche una cucina molto speciale qua. Ci fermiamo per qualche istante, restate con noi. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio, ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Globetrotter 24. Ultima parte di Globetrotter 24 speciale dedicata a Mantova, angoli, palazzi e altri musei. Camminando arriviamo in Piazza Erbe e in un angolo della piazza, alzando gli occhi, vediamo qualcosa di molto speciale. La casa del mercante, cosiddetta in Piazza Erbe, è un miracolo dell'urbanistica, perché è praticamente rimasta intonsa, intatta, mai cambiata, mai ristrutturata dal 1455 fino ad oggi, ed era proprietà di un ricchissimo mercante di stoffe di origini milanesi che si recava ogni settimana a Venezia, perché era il principale snodo per il commercio con la seta e altri materiali preziosi. Siccome Mantova è esattamente al centro del viaggio tra Milano e Venezia, si fa costruire una casa d'appoggio in stile veneziano. È uno stile gotico veneziano che anche a Venezia è raro, nel senso che la buona parte delle facciate veneziane sono del 500 in avanti, quelle quattrocentesche sono abbastanza rare, e qui abbiamo quindi una piccola casa veneziana in terraferma. Notare che sotto i portici di questo palazzo c'è ancora un negozio di stoffe. Ma cosa hanno in programma a Palazzo Ducale per questo anno della cultura? E il suo direttore, che idea? Tante cose. Il problema, non cominciamo con i problemi, cominciamo con la fantasia. La fantasia è di sviluppare mostre, di sviluppare il palazzo come un centro d'incontro, ma ci vogliono tante cose per per rivedere tutto l'allestimento del palazzo, anche tutto il servizio per i visitatori, tutta la didattica, quello, l'iscrizione, non si può leggere a questo punto quello che è scritto. Anche il palazzo è grandissimo, sono 950 stanze, camere, sale, cortile, tutto quello. Bisogna dare al visitatore, diciamo, la sensazione di una sorpresa. Ogni stanza deve essere qualcosa di speciale, non un corridoio dopo l'altro pieno di pitture e cose che ok, la prossima Santa Barbara, la prossima Natività, ma anche interessante, ma solo per un parte. Poi si gira e poi c'è una grotta, poi si gira, c'è un giardino pensile, poi si gira, c'è una camera rinascimentale, si gira dall'altra parte, c'è uno studiolo, poi si gira, c'è il grande Rubens. Da, che impressione. La gente non sa che il palazzo ha anche una bella collezione, quindi anche su questo credo dobbiamo lavorare. Ho già preso i primi passi con giornalisti, anche di fare una serie che comunica un po' che cosa è dentro il palazzo, che non è solo una cosa grandissima da fuori. Poi naturalmente ci sono i danni del terremoto ancora, ci sono progetti da ristrutturare, specialmente il Castello San Giorgio, le torri, ma credo fra un anno ci siamo con questo, così si può proprio arrivare a allestire le sale, aprire nuovi percorsi per i visitatori, specialmente la grande sala di Manto sarà qualcosa da aprire proprio per il prossimo anno. E se lo facciamo, e credo, cominciamo con un ballo il prossimo anno, sì, perché è così bello, è una cosa così speciale che un po' di ballare in questo ambiente mi sembra adatto. Farà forse un po' freddo, ma un ballo forse è proprio quello che ci vuole per cominciare con entusiasmo. E accanto all'entusiasmo però serve un progetto, che in questo caso può contare su circa 5 milioni di euro. A raccontarlo il sindaco Mattia Palazzi. Mantova davvero rappresenta un'unicità, nel senso che è una città, una storia, un patrimonio incredibile che tutti conoscono e spero sempre di più conosceranno, ma anche una città che ha poi diversi elementi, la si può attraversare a piedi in 15 minuti, è una città che ha una qualità del cibo e della cucina alta e importante, è una città che può essere davvero un laboratorio anche per far sì che quell'economia che è profondamente collegata alla cultura e al turismo possa, diciamo, costruire anche infrastrutture moderne per i cittadini e per svilupparsi. Ci sono, credo, tanti elementi. In primis davvero però il fatto che abbiamo presentato un progetto nel quale impegniamo il comune e anche nella ricerca di sponsor a investire oltre 1 milione e altri 4 milioni di euro. E dove li investirete? Cioè, quali sono i primi progetti che avete individuato, visto che poi la nomina è di fine ottobre, quindi insomma da poco? Sì, dobbiamo correre. Beh, gli investimenti sono investimenti innanzitutto nel restauro. Il progetto che abbiamo presentato è un progetto che prevede un forte intervento nel recupero del patrimonio storico-artistico della città. Prevediamo il recupero delle facciate di Palazzo Te, le facciate che danno sulle peschiere, quindi verso l'Esedra, che sono in condizioni assolutamente, sono veramente ammalorate. Abbiamo in progetto anche il recupero dell'appartamento del giardino segreto, che potrebbe anche ridefinire nuovi spazi per il bookshop e la caffetteria di Palazzo Te. I nostri musei devono essere anche belli e attrattivi, rendere gli spazi funzionali, renderli moderni con tecnologie, dare la possibilità ai ragazzi che possono studiare, fare ricerca, fare attività, è uno dei punti centrali anche per far sì che i musei possano accogliere più visitatori e in qualche modo diventare più europei in questo senso. Prevediamo il recupero e restauro della parte interna del palazzo del Bibiena, del teatro scientifico, tutti i palchi, la parte lignea che hanno bisogno da molti anni di recupero, la facciata è già stata recuperata invece negli scorsi anni, e prevediamo dopo secoli la messa in sicurezza, è stato colpito anche dal sisma del 2012, e poi il recupero funzionale e la piena fruibilità della Torre della Gabbia, che è una torre in pieno centro storico, l'ingresso di Piazza Sordello, che coi suoi 55 metri sarà davvero il belvedere della città. Tra i restauri citati dal primo cittadino, il Teatro Bibiena. Andiamo a scoprirlo. Il Teatro Bibiena è un altro dei gioielli straordinari della città, e qui non parla il campanilismo ma parla la realtà storica, perché intanto il teatro fu inaugurato da un Mozart quattordicenne che fu ricompensato per la sua prestazione con una pomata contro i geloni, quindi un premio abbastanza in natura. Ma la cosa più importante è che il padre di Mozart, Leopold, dopo il concerto scrisse una lettera che ancora oggi si conserva a Vienna alla famiglia, dicendo che tra le varie peregrinazioni che aveva avuto in tutti i teatri d'Europa non ne aveva visto uno più bello di questo. Ed effettivamente ancora oggi chi entra, la prima impressione è quella dello stupore, tutti rimangono a bocca aperta perché è una bomboniera, un gioiellino tutto in legno traforato, affrescato, e che avvolge lo spettatore dal punto di vista proprio fisico ma anche acustico, perché è una delle acustiche migliori a livello nazionale, in quanto ha una forma a campana che esalta tutte le rifrazioni sonore, e quindi è un'altra faccia di Mantova, non direttamente legata ai Gonzaga perché è successiva, ma risale al periodo d'oro della dominazione austriaca, in particolare al periodo di Maria Teresa d'Austria, imperatrice. Volta Mantova era una vera e propria isola, quattro specchi d'acqua la difendevano. Poi, nel XVII secolo, il lago Paiolo a sud fu prosciugato e a sud della città si trova Palazzo Te. Costruito su commissione di Federico II Gonzaga e affidato al genio dell'architetto Giulio Romano, anche Palazzo Te si apre a questo anno della cultura. Il direttore Stefano Benetti. Su un percorso ben tracciato, che è quello di restituire Palazzo Te al massimo della tutela e della visibilità possibile, per consegnare al nostro visitatore un'esperienza irripetibile, culturale irripetibile, all'altezza della fama di questo palazzo, frutto del genio artistico di Giulio Romano. Come avete inserito, come state inserendo la tecnologia in questo percorso? Il 2016 sarà un anno decisamente importante e di svolta per Palazzo Te, nel senso che il percorso già iniziato in una aspirazione di Palazzo Te 2.0 vedrà l'inserimento di tablet con realtà aumentata che proporranno sicuramente una visita assolutamente suggestiva. Se lei dovesse invitare il turista a venire qui, invogliarlo a venire qui, quale sarebbe l'aspetto che utilizzerebbe per attirarlo a Palazzo Te? Ma lo inviterei a riflettere sul fatto che Palazzo Te rappresenta un sogno che si è realizzato, il sogno di un principe che ha elevato la bellezza d'autorità e che è diventato realtà grazie alla forza, all'estro e alla creatività di un genio quale Giulio Romano. Si riflette in tutte le stanze che sono una meraviglia una dietro l'altra. Esatto. Definire Giulio Romano architetto è forse un po' riduttivo, e lo si comprende quando la visita del palazzo arriva alla Sala dei Giganti, inizio dei lavori 1532. Questo è sicuramente l'esperimento più ardito del Rinascimento, nel senso che Giulio Romano, prima ancora di affrescare, interviene sulla struttura architettonica, nel senso che nega i limiti dell'architettura, infatti gli angoli sono smussati, e costruisce un nuovo limite nella dipintura, negli affreschi, cioè i paesaggi. Quindi il limite dell'occhio umano si perde nell'orizzonte del paesaggio e non più nei limiti dell'architettura, che vengono negati. In questa logica Giulio Romano ferma il mito della caduta dei giganti nel momento in cui Zeus, accortosi, preso atto del tentativo di conquista dell'Olimpo da parte dei giganti, scende dall'Olimpo, dal trono, si colloca sulle nuvole, chiama raccolta l'assemblea degli dei e, coadiuvato dalla consorte Giunone, scaglia la vendetta contro i giganti attraverso i fulmini, così che le montagne si squarciano e i massi precipitano addosso ai giganti che vengono schiacciati. Le acque si ribellano e travolgono i giganti, le architetture si spaccano e precipitano sui giganti. C'è tutto perché questo anno sia un successo, per Mantova, per la cultura e per tutti coloro che vorranno venire a scoprirla. Naturalmente sarà un successo perché c'è una grande emozione dentro quando si parla con i mantovani, almeno quelli che vogliono qualcosa e che non sono in una vita così scura, si fa delle cose. Mantova ha questo festival della letteratura, questo festival musicale, ha tante associazioni che dicono tutti: vogliamo sviluppare insieme qualcosa con l'Istituto di Cultura, cioè esistenti. Così il successo è proprio che si è cambiato, come si può dire, l'atteggiamento verso la cultura della città, verso tutta Mantova. Quindi Mantova non è la bella addormentata, ma la bella che si sveglia. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, da Valeria De Rosa ancora l'augurio di buone feste.